5G. Ascolta e trasforma. Prima di studiare faccio colazione. Dopo aver studiato faccio colazione. Prima di ascoltare la radio faremo gli esercizi. Dopo aver ascoltato la radio faremo gli esercizi. Prima di suonare il piano abbiamo fatto una passeggiata. Dopo aver suonato il piano, abbiamo fatto una passeggiata. Prima di studiare, le ragazze giocheranno a tennis. Dopo aver studiato, le ragazze giocheranno a tennis. Prima di uscire, Maria preparerà la valigia. Dopo essere uscita, Maria preparerà la valigia. Prima di scendere dal treno, Paolo ha telefonato a casa. Dopo essere sceso dal treno, Paolo ha telefonato a casa. Prima di salire in aereo, tutti i passeggeri spengono il telefonino. Dopo essere saliti in aereo, tutti i passeggeri spengono il telefonino.